La prima volta. A cura di Cristina Carpinelli. Critici si nasce, artisti si diventa. Cioè, per essere critici ci vuole un'attitudine che si sviluppa nel tempo, specialmente verso una nebulosa così complessa come l'arte contemporanea. Artisti lo si diventa nella misura in cui spesso noi vediamo nella biografia creativa di un artista una progressione anche qualitativa. Nel critico c'è come una sorta di attitudine iniziale, uno sguardo, una capacità analitica che evidentemente possiede e che gli permette poi in qualche modo di sviluppare da grande a livello professionale. Anch'io, quando ho conosciuto gli artisti, o perlomeno ho intravisto alcuni giovani artisti che cominciavano a recuperare uno strumento come la pittura in un momento in cui si usavano ancora strumenti avanguardistici e sperimentali, non ho avuto nessuna difficoltà nel riconoscere in nuce giovani che avrebbero poi sviluppato, come sai, quel movimento che va sotto nome di transavanguardia. Questa è la prima volta di Achille Bonito Oliva, un critico d'arte molto amato ma anche molto contestato dai suoi colleghi. Scopritore e sostenitore della transavanguardia, Bonito Oliva verrà per questo molto criticato. In questo caso è la volta di Sgarbi. Io ritengo che il tuo ruolo nella nostra cultura sia stato di grande positività. Cioè, io credo che se c'è un essere umano che può essere paragonato, benché da lui diversissimo, a D'Annunzio sei tu. Cioè, tu hai avuto un'influenza pericolosissima nel gusto. Sai che il d'annunzianesimo è un fenomeno deteriore. Il Bonito Olivesimo è un fenomeno. Ma dai, non dico per favore, in senso personale, voglio dire, calma. Il punto centrale te lo spiego, perché io ho voluto, mentre altri non volevano, che tu entrassi nel dizionario degli scrittori internazionali italiani di tutti i tempi, ecco. L'ho voluto per questo motivo, perché ho detto: non si può negare a Bonito Oliva, al di là della sua scrittura, il fatto che lui ha determinato una variante del gusto. Perfino Guttuso è una colpa tua, cioè la transavanguardia. No, ti spiego in che senso: il recupero della pittura attraverso la transavanguardia. Ma scusa, se tu l'erede testamentario di Guttuso, mica io. Ma che c'entra? Capisci che non voglio fare una polemica con te, voglio dire questo. Io ho un giudizio negativo su alcuni fenomeni dell'arte contemporanea, positivo sul fatto che attraverso di loro noi oggi possiamo riguardare con libertà una fetta di figurazione che tu misconosci, ma che in realtà è quella che vediamo qui. Take me out tonight, where there's music and there's people and they're young and alive. Bonito Oliva nasce a Caggiano, in provincia di Salerno, nel 39, studia legge a Napoli, si laurea e quindi si iscrive a lettere. È uno che va sempre nella direzione che vuole. Così, laurea da avvocato in tasca, si mette a fare il poeta e finisce nel Gruppo 63, un collettivo di intellettuali e poeti d'avanguardia. Sarà da qui che Bonito Oliva muoverà i suoi passi, approdando poi all'arte. È il mondo della pittura che segnerà la nascita del personaggio, la sua prima volta. Io dico sempre che sono un critico agrario, nel senso che vengo da parte di mio padre, di famiglia di aristocrazia di campagna, e da parte di mia madre di borghesia agraria. Ed è curioso, perché poi devo dire che alla fine, ecco l'intreccio tra l'intelligenza libertina e aristocratica da parte di mio padre, che discendeva poi dal pittore Bonito, un grande pittore del Settecento alla corte dei Borboni, e la famiglia di mia madre, il cui antenato era Celestino V, il papa che fece che era rifiuto. Io infatti non rifiuto nulla, proprio come risposta per un fatto mio di vitalismo, di partecipazione, di senso del gioco. Io sono preparato alla vita, io amo la vita, e amo la vita dalla vita in su e dalla vita in giù, mi capisce? Quindi sono una persona piena di curiosità, ma dicevo, tutto questo mi ha dato un'impronta per cui non vedo nella cultura e nell'arte uno strumento di escalation sociale. Non sono un piccolo borghese e quindi automaticamente quello che faccio e continuo a fare penso sempre a quello che farò da grande. E non solo, ma quando niente mi costa, nel senso che io prendo posizione a seguire ciò che ho nella testa come cultura, come impostazione, come idea politica delle cose, quindi sostanzialmente non c'è opportunismo e direi anche di più. Tutti sono, come dire, ammirati di questo trionfo della transavanguardia, che effettivamente è un trionfo che continua dopo 40 anni con i 5 artisti che sono diventati tutti e 5 artisti di fama mondiale. Anzi, le annuncio che il 23 inauguro e completo il ciclo dei festeggiamenti per i 150 anni dell'Unità d'Italia, cominciata con una mostra 2 anni fa a Palazzo Reale a Milano, sono i 5 della transavanguardia, e poi una serie di mostre personali, ecco, in tutta Italia. Il 23 inauguro la mostra di Francesco Clemente al Palazzo Sant'Elia di Palermo. Questa sua vitalità, questo suo essere, come diceva lei, no? Non dico mai di no, ci sono sempre, voglio godere tutto, cioè fino a... sicuramente però ci sono delle cose sulle quali, insomma, si chiede, cioè, se avessi fatto di più o se avessi scelto diversamente, cioè ci sono dei rimpianti, insomma, nella sua vita? No, le assicuro, guardi, ma perché è la mia vitalità che non me lo permette di rallentare e quindi di regredire ad una sorta di auto da fé. No, assolutamente no. Io, insomma, penso che il problema non è quello di valutare in termini meritocratici qual è il meglio, qual è il peggio. Quello che è importante è aver fatto le scelte giuste, con opportunità, velocità, contestualmente appunto all'evoluzione dell'arte. Io dico sempre che il grande critico è quello che progetta il passato, lo sottrae alla distanza archeologica, gli dà attualità e configura una lettura della storia nuova, inedita e personale. Ecco, io credo di aver in qualche modo, anche col mio libro sul manierismo, l'ideologia del traditore, che è tradotto insomma, in tutte le lingue, anche in cinese, è da lì che nasce poi l'idea che la transavanguardia, la contemporaneità, ha come matrice il Cinquecento, il manierismo, l'idea di Leonardo che l'arte è cosa mentale. Diciamo che mi ha permesso di disegnare una mappa della, attraverso l'iconografia dell'arte che corre dal Cinquecento ad oggi e arriva ad attualizzare il passato e nello stesso tempo a nobilitare il presente attraverso queste radici profonde e resistenti. La prima volta. La prima volta. A cura di Cristina Carpinelli. Infatti, Tracklight è finito. È conciato da buttar via. Dovresti vederlo. Pretario dice che non arriva fino ad agosto. E io ho altri 16 milioni che in teoria servivano per la pubblicità. E il catalogo non sarà mai finito. Perché Tracklight dice che lo vuole tutto a colori. Il mio architetto Boulet conosceva il colore molto meglio di Leonardo da Vinci. E conosceva la pubblicità molto meglio di Michelangelo Buonarroti. E l'erotismo molto meglio di Casanova. Nel film Nel ventre dell'architetto emerge un quadro al limite dello squallore. L'arte che diventa terreno per la lotta tra artisti, rappresaglia, ricatti. Un luogo in cui il talento finisce all'ultimo posto. Un luogo in cui a vincere è chi sa far meglio pubblicità. Scrittore, poeta, figlio dell'aristocrazia del sud Italia, Achille Bonito Oliva ha lasciato nel cassetto la sua laurea in legge e si è buttato sull'arte. Prima il gruppo 63, poi negli anni 80 sarà il sostenitore e teorizzatore della transavanguardia. Ma è proprio questo riprendere lo slogan di Picasso, l'arte puntata sul mondo, fare dell'arte un atto pubblico, segnalare le tematiche complesse e problemi che riguardano l'umanità, l'ecologia, la violenza, la differenza. Quindi c'è nei giovani artisti il desiderio di partecipare, di fare dell'arte non solo una domanda sul mondo, ma anche sensibilizzare, direi, la coscienza collettiva. In effetti, come c'è un, direi, uno slogan che io ho utilizzato e creato, che è quella che l'arte serve a massaggiare il muscolo atrofizzato della sensibilità collettiva. Questo è molto vero, soprattutto in un periodo in cui quasi sembra data per superflua e invece poi si scopre, insomma, che ci tiene in piedi, no? La bellezza, è l'arte. Vero. Lei non nasce in realtà come critico letterario, perché io ho guardato il suo curriculum. Come critico, come poeta. Esatto. Come poeta d'avanguardia, partecipe del gruppo 63, poeta visivo, quindi apertura verso l'immagine, e poi passaggio dalla poesia alla prosa nel 60, insomma, definitivamente intorno al 68, perché sento nel mondo dell'arte più stimoli di quanto non ne venivano dalla letteratura. Io in effetti ho creato un modello che è stato definito nella critica creativa. Ho dato protagonismo e corpo al critico d'arte e quindi in qualche modo ho messo in evidenza la complementarietà della riflessione del critico accanto, senza gerarchia, all'atto della creazione dell'artista. Nella cultura contemporanea, fuori da ogni piccolo romanticismo, attraverso proprio quello che è la divisione del lavoro intellettuale, si può dire che l'artista crea, il critico riflette, anzi di più, c'è il gallerista che espone, il collezionista che tesaurizza l'opera, il museo che storicizza, i media che celebrano, il pubblico che contempla. Ecco il sistema dell'arte, un sistema fatto di scambio, di professionalità ricambiata e direi anche di dialogo fra portatori di diverse professionalità. Poi tenga conto anche del fatto che io ho vissuto sistematicamente una vita diurna e notturna con gli artisti, fatta non solo di mostre, gallerie, musei e collezioni, ma anche di discoteca, di bar, di danze. Ecco, che questo sia per me dar corpo alla critica d'arte. Sviluppare anche un erotismo, una forma di partecipazione attiva, che non sia scolastica, accademica e laterale. Direi anzi, come io dico, l'artista è il mio nemico più intimo, quindi è interessante sviluppare un'attenzione che è frutto poi di una posizione amorosa verso l'arte. E lei quegli anni 70, alla fine degli anni 70, come li ricorda? Cioè, oltre... Beh, li ricorda come degli anni in cui io ho fatto una grande battaglia, epica direi, ma involontaria e anche esaltante, quando ho creato la Transavanguardia, ho teorizzato questo movimento, ho selezionato 5 artisti che sono diventati tutti poi artisti di fama mondiale. All'inizio la cosa è stata vista come una sorta di deviazione rispetto all'ideologia che io chiamo del darwinismo linguistico, l'idea evolutiva dell'arte che si sviluppa a partire dagli antenati nobili che sono le avanguardie storiche. Invece la transavanguardia non è un'anti-avanguardia, è un'arte di attraversamento, è un'arte che tiene conto delle avanguardie storiche, ma anche della identità antropologica dell'artista e alla sua appartenenza a un territorio fatto di radici elastici. Ecco l'idea meticcia dell'arte, ecco l'intreccio tra astratto e figurativo, ecco il nomadismo culturale che ho teorizzato, l'eclettismo stilistico, insomma il recupero della pittura, della scultura, attraverso il linguaggio della citazione, dopo che per secoli si era operato attraverso il linguaggio dell'invenzione sistematica. La citazione è memoria, la citazione è recupero di un'identità del genus loci, e per questo attraverso l'avanguardia l'arte europea ha trovato, come lei sa, una centralità e ha ribaltato il rapporto gerarchico che c'era con l'arte americana, che dall'action painting fino alla pop art aveva ormai il primato. Prima si andava a Parigi in pellegrinaggio nella prima metà del XX secolo, nella seconda a New York, perché l'arte americana nella sua radicalità aveva capovolto il rapporto con la danza avanguardia, col tema della citazione, della memoria, con l'idea della postmodernità. Ecco che l'Europa, l'Italia, che ha 2000 anni di storia, ha avuto il sopravvento su una nazione come l'America, che ha 300 anni di storia. Però anche lì si è sviluppata la danza avanguardia, non solo in Europa, anche in America, anche nell'Asia, perché corrisponde a un'epoca di crisi, che è quella della postmodernità, quando non c'è più fiducia sull'evoluzione lineare della storia, ed è giusto utilizzare anche il passato per affrontare il presente. If I was young, I'd flee this town. I buried my dreams underground. As did I, we drink to die, we drink to now. Quello che racconta Achille Bonitoliva è un mondo a cavallo tra i 70 e gli 80 in cui la parola chiave è sperimentare. Sperimentare a tal punto da distruggere quasi tutto. Lo racconta bene in Zabriskie Point Michelangelo Antonioni. È evidente che la zona ha molte possibilità di sviluppo, con una spiaggia, un lago, dove uno può vivere tranquillo come gli pare e in modo confortevole. Devo dire che l'affare nell'insieme mi entusiasma, ma forse finiremo per trovare l'oro in questa proprietà. Se ci troviamo l'acqua, certamente ci troviamo anche l'oro. In questo paese l'acqua è oro. L'acqua, l'elettrificazione, la pista d'atterraggio, le strade, la sistemazione delle spiagge e gli altri impianti sussidiari rappresentano soltanto i dettagli del nostro progetto generale. La prima volta termina qui. Io vi ringrazio per averci seguito, vi rinnovo l'appuntamento sempre a domenica, sempre alle 13.30. Se volete potete scriverci a laprimavolta@radio24.it oppure potete riascoltarci in podcast. Buona giornata a tutti, da Cristina Carpinelli. I'd flee this town, I buried my dreams underground. As did I, we drink to die, we drink to night. Far from home, elephant guns, let's take them down. One by one, we'll lay it down. It's not been found, it's not around. Let the seasons